se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ciao, grande Alessandro Magno. Faster than the speed of sound, faster than a speeding bullet. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong, I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along. Right? E che adesso c'è un referendum che è un referendum che è un derby tra il passato e il futuro. Che è un derby tra il cinismo e la speranza, che è un derby tra la rabbia e la proposta, che è un derby tra la nostalgia e il domani. Silvio Berlusconi ha detto che questa riforma rischia di creare un uomo solo al comando. E poi mi dite, ma perché Berlusconi ti sta così simpatico? Ma è meraviglioso. Now that girl had lived in love. Tutti lo hanno detto per anni, 34 anni. Quando noi lo abbiamo fatto, loro hanno detto, beh, è un po' frettolosa. Ciriaco De Mita, è un po' frettolosa. Massimo D'Alema, noi l'avremmo fatta meglio. E perché non l'hai fatta allora in questi anni? Perché non l'hai fatta te? Il messaggio è che sostanzialmente gli stessi che 18 anni fa decretarono la fine dell'Ulivo perché non erano loro a comandare la sinistra, stanno provando a decretare la fine del Partito Democratico perché hanno perso un congresso e usano il referendum costituzionale come lo strumento per ritornare a giocare la partita di rivincita. È finita così con il fuori, che qua si è colto poco ma c'è stato, fuori, il fuori della Leopolda a Chia, quelli tipo Bersani, D'Alema, stavo dicendo i Cooperlo, no, i Cooperlo l'hanno recuperato, i Gotor, insomma la sinistra che non piace a Renzi, e le accuse di dire ma così sei troppo aggressivo, c'è Speranza che dice sono incazzato, Renzi doveva fermarli questi qui. Va bene, dai, siamo qui ragazzi, siamo a 24 mattino alle 6:35 minuti, ormai si inizia sempre più tardi, tra un po' si inizia direttamente alle 7, do la linea al giornale radio e me ne vado, che è meglio. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, nel giorno in cui inizia la 184esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, via. Attenzione perché c'è anche Farinetti che comincia a dire a Renzi, attenzione, cominciamo a diventare un po' antipatici. Però c'è la strategia, l'avete già vista la strategia, poi smentita lo stesso Renzi, ma è una strategia evidente visto che due casi, due elementi, tre elementi costituiscono ormai una prova. Quando non ti sopportano, regola numero uno, regola numero uno vale per tutti i maschietti italiani. Regola numero uno, quando non ti sopportano, che fai? Manda avanti tua moglie con un bel sorriso. Ah. Manda avanti un passo tua moglie con un bel sorriso. Ah. E vedrai che diventi subito un po' più simpatico. Agnese Landini che compare ovunque. Anche lei ormai, se apri il microonde, c'è Renzi, davanti c'è Agnese che ti guarda con un sorriso. È la strategia, signori, è lo storytelling, è la comunicazione. Allora, Qui devo subito salutare un grandissimo ritorno, grandissimo, da dove non si sa nel mondo, ce lo dirà Albertone Forchielli. Ciao Alberto, quanto ci sei mancato. Ciao Lino. Dove sei? Ciao, dove ciao, sei? Ciao. Dove sei? Sono a Bangkok. A Bangkok, tu sì che te la godi a Bangkok. Mamma mia. Tra poco parleremo anche del tuo libro, libro che sta avendo grande successo. Il potere è noioso, ha scritto questo libro. Lo penserà anche Renzi, secondo te, che è noioso? No, no, a lui piace. Piace. A lui piace, dice. Gli piace lui. A lui gli piace. A lui sì. Non l'ha ancora capito, è rimasto indietro. Vabbè, con Alberto Forchielli, come al solito la linea si sente un po'. Dove sei a Bangkok? Si sente un po' così, mettiti... Sei comodo? Sei sul divano? Sì, sono qui sul divano. Ho un gran raffreddore, clima uggioso, non fa caldo, ma è nuvoloso. Sono preso un raffreddore con l'aria condizionata. Si sa. Alberto Forchielli mette l'aria condizionata meno 15. Sei in forma, va bene. Sì, allora... Sì. Apriamo subito il Parlamento per... ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo... Allora, intanto hai notizie, te lo chiedo subito, lo sai, le rare volte in cui ci sentiamo in onda, del Milan e della Cina, devi dirmi qualcosa di buono, di brutto? No, non devi dirmi niente? No, adesso ho smesso di sentire, perché mi sono preso tante quelle offese dai tifosi milanisti. No, perché? Siamo così simpatici noi, ti abbiamo trattato male? Ma perché avevo espresso perplessità, comunque, tanto per farti iniziare bene la giornata, una proprietà cinese della squadra di calcio è catastrofica, perenne ragione su cui potrei scrivere il secondo libro. Il Milan va sicuramente a finire male. Oh, che bello. Questa o lo chiudono. O lo chiudono. Sì, no, questi o non chiudono. Non chiudono. Sì. O non chiudono proprio. Oppure chiudono e poi fanno un tonfo della Madonna in borsa. Bene. Oppure riescono a chiudere ad andare in borsa. E andiamo in B. E il tonfo lo fanno dopo. Andiamo in B. Il tonfo lo fanno dopo. Ma andiamo in B. Sì, torniamo. Sì, no, io dissi una volta che si andava a Cosen semiprofessionale, in serie C. Va bene. Allora, sì, adesso tra poco lo twitto, quindi ti faccio passare un'altra bella giornata con i tifosi del Milan. Quindi o non chiudono... Ma volentieri, sono malato, Puoi rispondere a tutti. Quindi o non chiudono, o chiudono e fanno un tonfo in borsa... O tutto a posto, ma finiamo in serie C. Vanno in borsa e poi finisco tutti in galera. Tutti in galera e noi in C. I scenari sono tre: o non chiudono, sì, o chiudono e dopo non vanno in borsa, perché non c'è la fine lo stesso. Oppure chiudono, vanno in borsa e poi finisco tutti in galera. E tutti in galera e noi in C. E noi in C. Esatto. No, noi in C può andare. Ovvio. In C, ovvio, va bene. Ok, e buon lunedì a tutti noi tifosi del Milan, buon lunedì a tutti noi tifosi. Allora, caro Alberto, tu però vivi parte dell'anno a Boston, è la settimana, qui ci occupiamo di Renzi, la Leopolda, ma ragazzi, tra due giorni avremo ancora, ma tra l'altro è ancora l'uomo o la donna in questo caso più potente al mondo il presidente degli Stati Uniti quando viene eletto, secondo te? No, in questo momento no, perché ha troppi vincoli. È molto più potente il presidente della Cina, che è un presidente americano, ha a che fare con la Costituzione, con la Banca Centrale, a che fare con un sistema bicamerale, quindi a che fare con un sistema giudiziario autonomo, perché le possono fare un impeachment, quindi è molto... Non è così potente. Molto compresso. E vabbè, e chi vincerà? Il cinese non è. E chi vincerà? Ma le probabilità sono proprio tutte per Hillary. Malavoglia, sì. Direi che Sì, proprio non. Oh, mi sono sbagliato tante volte. Io non pensavo neanche alla Brexit, ma stavolta i numeri parlano abbastanza chiari. Le probabilità di vittoria di Trump sono un terzo. Un terzo, va bene. Sono, Sì, no, sì, sì. Però vince Hillary Clinton. Ma non sarebbe da gioirne, non è che un Hillary che vince. No, perché avrebbe la Camera contro, perché la Camera è repubblicana. E poi non verrebbe eletta con quella forza necessaria forse a portarsi dietro il Senato. E qui si ritrova una situazione italiana, ossia il potere esecutivo personificato dal Presidente che è contro il Parlamento. E le grandi riforme in America vanno fatte sul lato domestico. Sì, sì. E quindi sono leggermente pessimista. Sì, sì. Vabbè, sì. Ma Trump ti piace da imprenditore? Una volta mi hai detto che è un po' un farabutto, nel senso. Ma sai, a livello affari. Quest'anno hanno assegnato a Bill Murray il premio Mark Twain come miglior comico USA. Quindi Trump proprio rischia di non vincere un cazzo, perché è stato, guardare Trump è stato fantastico. Chi è che l'ha vinto il premio Mark Twain? Bill Murray? Bill Murray, sì. Poteva concorrere Trump. Almeno Trump poteva concorrere a quello. Non se l'hai visto. Cioè, ha una mobilità zero. Cioè, sta lì fermo perché deve sembrare presidenziale. Muove i due avambracci, capito? È un muratino, non ha neanche una mobilità. Vabbè, avrà qualche problema fisico adesso. Sì, forse l'ernia al disco, non so. L'ernia al disco? Un colpo sopra il culo, si sa. Non lo so. No. Non credo. Credo quello. Sì, sa, pur di farlo sembrare presidenziale, gli avranno messo busto, non so. Il busto. Ma no, io sono d'accordo su Trump, sulla politica estera, cioè sul disengaging, sul mollare l'Asia, lasciare che il Giappone e la Corea se la vedono con la Cina, sganciarsi in parte dalla NATO, lasciare che gli europei se la vedano per i fatti loro. Sono abbastanza d'accordo su queste politiche, mentre invece la Hillary continuerà con le vecchie politiche, torneranno fuori i neocon, quelli che dell'egemonia americana, ci andremo a rompere i coglioni da Stati Uniti, andremo a rompere i coglioni dal Sisi in Egitto, andremo a rompere i coglioni in Ucraina. Sono quelle questa cose, con la Clinton, capito? Con la Clinton. Politica. Sì, con la Clinton, sì, perché purtroppo, ecco, una cosa che devo dire è che il presidente americano ha pochissimi poteri in termini di politica interna, invece ha enormi poteri in fatto di politica estera. In politica estera, infatti molti si lamentano dell'atteggiamento americano. Oh, invece, caro Alberto, qui tu che vai in giro per il mondo, sai che si parla di referendum, si parla di, hai visto, non avrai visto, però insomma c'è stato questo Renzi che è fuori a tutti. Sentite De Luca, c'è De Luca sul referendum, d'altronde è lunedì, De Luca, come possiamo? De Luca è il presidente della Campania, Forchielli, se tu non... magari da Bangkok. Ah, l'adoro. Lo adori, eccolo, li sento. L'adoro, io lo guardo su YouTube. Senti. Bicameralismo perfetto, va bene così, togliamolo di mezzo, è una cosa demenziale. Diciamo subito che questa riforma, ecco, questa è un'altra cosa che mi spinge a votare decisamente per il sì, nonostante l'ineleganza del testo. Per la ragione che dice Giuliano, perché l'alternativa a questa riforma è il nulla. No, questo è De Luca. Allora Alberto, cioè, sai che ci sono molti che dicono voto sì anche se mi fa schifo. Cacciari ha detto questa cosa è scritta male, mi fa schifo, ma voto sì perché è l'alternativa. Ma mi sembra che anche tu sei di questa idea, cioè voto sì, voti sì, anche se non sei molto entusiasta, no? No, non sono per niente entusiasta, ma io voto sì per la variante estera. Io la vedo come la vedo dall'estero. E come la vedo? Non è possibile legiferare per due anni una roba che per due anni è in prima pagina, passa tre volte alla Camera, passa tre volte al Senato, e poi di colpo diciamo no, non ci va più. Cioè, è una roba non... Cioè ti dà l'idea di un qualcosa che non si muove, un qualcosa. Un paese schizofrenico, capito? Cioè, un paese schizofrenico, che paese è quello lì? Cioè, quello lì. Due che anni poi... che ne parlano, hanno fatto tre passaggi e poi le stesse persone che l'hanno votato dicono no. Poi la penso anche che star via due anni, qualunque cambiamento meglio del nulla. Penso anche, siamo un paziente in coma. Siamo un paziente che non si sa se staccare la spina oppure no, che muova un dito e che faccia qualcosa, facciamo qualcosa. Poi, purtroppo io non voglio finire come la Grecia, Ah. È vero che si esagera molto con l'importanza di questo voto, però questo voto qui alla fine fuori si dice buona, finita questo paese qui è non riesce a bloccare l'aumento del debito. Sì. In questo modo in Italia per mantenere un minimo di consenso è continuamente dare soldi alla gente e quindi aumentare il debito. Quella è un'addiction che è infinita. Non riescono a fare nessun cambiamento, non si riesce a creare nessun governo stabile che possa tenere. Dice almeno qualcosa facciamo. Che si possa fare... No, a quel punto lì via. Devo andare al traffico, Alberto, stai lì, siamo già in ritardo, siamo sempre di corsa, qua il tempo vola, ci tolgono i secondi, ci tolgono i minuti, ci buttano fuori a calci in culo, via dai. Brum brum brum, c'è il traffico, Milan. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Questa troppa democrazia è quasi peggio di una dittatura. Ciao sull'Alberto, anche a me t'acciami da Bali, ma da due Bali, in mezzo alla nebbia china la bassa milanesa. La proprietà privata va rispettata. Se vuoi il mio albergo e io non te lo voglio dare, ti attacchi al cazzo. Altrimenti me lo espropri quando me lo paghi. Me lo espropri! She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. Adesso vi saluto. Mamma mi ha detto di essere breve perché lei ha poca autonomia. Vi chiedo un'ultima cosa. So che il 4 dicembre si vota per cambiare l'Italia e per invertire un po' il passo di questo bel paese in cui avrò la fortuna di arrivare. Mi raccomando, votate sì. Mia mamma mi darà le gambe per camminare. Voi avete la possibilità di farmi correre insieme a voi e ai vostri figli. Cioè, Silvia per conto di Alice. Silvia per conto di Alice. Io non so se vi rendete conto. C'è una mamma, che è quasi mamma, che porta in grembo Alice, che ha preso la parola alla Leopolda e ha scritto una lettera in nome della bambina, cioè facendosi portavoce della bambina che porta in grembo. Tanti auguri, ovviamente, tanta felicità. E questa bambina, che non ha ancora visto la luce, vuole vedere però la luce in un mondo renziano in cui si è votato sì e in cui il referendum è passato, e così Alice potrà vedere il mondo e crescere con le sue gambettine felice, serena, contenta. Così almeno garantisce la sua mamma, che interpreterà sicuramente meglio di tutti il pensiero della figlioletta in grembo. Ragazzi, ecco Alberto, vedi, mentre stanno eleggendo il presidente americano, io quando vedo queste cose divento un po' cattivo, non lo so, ma per carità, siamo un paese anche un po', ci piace un po' la retorica. Vabbè dai, non commentare, ti prego, perché sennò poi dici qualcosa di brutto alla piccola Alice che non è ancora nata, io lo so. No, dimmi piuttosto questo. Hai scritto questo libro di Baldini e Gastoldi, Il potere è noioso. Perché sì. Il potere è noioso? Già il titolo è, ma perché è così noioso il potere? C'è gente che scannerebbe i figli per il potere, soprattutto i figli degli altri, e lo fa anche. Perché il potere è noioso? Sai, perché tutto è effimero. Anche chi ha potere ti fa credere di averlo, poi in realtà non ce l'ha, c'è sempre qualcuno che gli tira la giacchetta, no? Secondo, per averlo devi autocorromperti, devi fare a tanti compromessi, per cui quando arrivi in cima il potere non ce l'hai più, perché l'hai già disperso in mille rivoli per poter avere i favori di chi ti elegge. Terzo, molto spesso è inutile. Perché noi siamo pieni di persone di potere che non hanno fatto rigorosamente un cazzo. Ecco. Invece guarda Madre Teresa di Calcutta, non ha mai avuto 50 riluttanze, guarda cosa ha fatto. Però tu... è il modello sbagliato. Chiaro, tu racconti anche perché hai vissuto tra America e Stati Uniti, tra America e Cina, no? Questi sono i due paesi considerati forse più potenti, i due paesi più influenti, o no? Beh sì, sono gli unici due paesi in cui vaga veramente la pena vivere, ossia in America inizia il mondo, sì. In Cina e in Asia lo fanno, mm-hmm. Tutto quello che c'è in mezzo è commedia dell'arte, cioè le grandi idee, le grandi invenzioni, biotecnologia, drone, intelligenza artificiale, tutta quella roba lì la inventano tra Palo Alto e Boston. C'è, tutto però resto. Dopo su larga scala la realizzano in Asia, dove c'è tutto quello che sta in mezzo è margine. Quindi bisogna stare dove le cose le inventano, dove le cose le fanno, per vedere qualcosa, per avere qualcosa da raccontare. Allora guarda, io ce l'ho qua e ve lo consiglio, ovviamente, Il potere noioso di Alberto Forchielli. Caro Alberto, qui come vedi il tempo vola e abbiamo finito, vuoi lasciarci con una massima, un saluto, una delle tue benauguranti dopo aver augurato tutta una buona settimana ai tifosi del Milan, ovviamente, vuoi un tuo sguardo sull'Italia, qualcosa che... Io però ho notato con molto gioia che proprio di fronte all'ennesimo scosso di terremoto, che torna d'attualità l'urgenza delle misure antisismiche, mi fa piacere. Il ponte sullo stretto è veramente quello che serve. Ecco, colgo una vaga vena di ironia. Dai Albertone Forchielli, ti ringrazio, ci sentiamo presto, spero. Ora sei a Bangkok, quindi non ti dobbiamo sbrandare a orari strani per venire qui in diretta a 24 mattino, sei sempre benvenuto come sei. Andiamo adesso al giornale radio e poi ci ritroviamo con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, la 184esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata e allora siamo qui nello spazio della rassegna stampa dedicata ai giornali. Dunque, in questo 24 mattino siamo pronti, caro Peter Biscapè, a vedere che cosa ci offrono questi quotidiani. Andiamo? Che facciamo? Eccolo non so qua. Di chi parlare i giornali. Oggi lo annuncio subito, in questo lunedì 7 novembre, ce ne sarà anche per Radio Maria, almeno questo raccontano i quotidiani. Non ce ne voglia padre Livio Fanzaga, per me è un mito che ogni volta mettiamo appena possibile. Intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alle cartelle Equitalia, caccia allo sconto, pagamenti fino a 4 rate, ma il Parlamento potrebbe cambiare tempi e modalità. È l'apertura anche del giornale Equitalia, addio come rottamare tutte le cartelle, oggi parte l'operazione ma è caos, questo secondo il giornale. La politica in realtà prende tutte le prime pagine con l'attacco di Renzi alla minoranza PD. Per il Corriere della Sera, no a governicchi, Renzi all'attacco della minoranza PD, questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, l'attacco di Renzi alla minoranza PD, no a governicchi, il titolo dunque è uguale pressoché. Per la Stampa, Renzi attacca nel PD lo spettro della scissione. Il Messaggero, Renzi, la sinistra rovina il PD. Per il Fatto Quotidiano, se questo è un premier, insulti e bugie, disperato per i sondaggi, Renzi perde definitivamente la testa. Per il Giorno, Renzi, guerra al vecchio PD, Libero, Renzi, dopo di me il diluvio. Come vedete, praticamente unanimi i quotidiani ad aprire su quello che è successo ieri, la chiusura della Leopolda. Oh, soldi! Sapete che ogni tanto mi piace tenere il filo dei soldi. Ci sono vari articoli che riguardano i soldi, il denaro, oggi sui giornali, a cominciare dai 1000 emendamenti che sono stati messi in finanziaria, nella legge di bilancio, presentati alla Camera. Non tutti questi verranno ammessi, ma è interessante spulciare in questi emendamenti, come fa Rosaria Amato su Repubblica, pagina 12. Gondole, birra, tartufi, bagarini, riparte l'assalto alla diligenza. E allora cosa hanno proposto i parlamentari? Le multe ai bagarini, il bicentenario del teatro Marruccino di Chieti, il regime fiscale dei tartufi, le licenze di pesca, le universiadi di Napoli, il risanamento del lago di Vico, il bollo delle auto storiche, il bonus di ristrutturazione edilizia esteso anche ai giardini. Ci sono 1000 emendamenti che vanno ben oltre i temi principali del DDL di conversione del decreto fiscale. È un vero e proprio assalto alla diligenza che riproduce in pieno gli assalti alla manovra degli anni passati. E allora tra queste proposte c'è agevolazioni fiscali per raccogliere i tartufi e la commercializzazione, emendamento per proporre sconto fiscale del 40% per i birrifici artigianali. Chi ha un birrificio artigianale sarà felice. Il taglio delle tasse per gondole e aliscafi. Chi è gondoliere o chi ha una compagnia di aliscafi sarà contento. Più fondi per il trasporto su acqua, per il finanziamento delle tratte ferroviarie come la linea Ferrandina-Matera, oppure la linea che collega l'Italia con la Slovenia. Altri propongono sanzioni per i bagarini, l'obbligatorietà per i tassisti a emettere ricevuta fiscale con indicazioni del percorso. Cari tassisti, so che siete in tanti all'ascolto, c'è un emendamento in tal senso, ripeto, trovare un sistema per obbligare i tassisti a emettere ricevuta fiscale con le indicazioni del percorso. E ancora, qualcun altro vorrebbe deducibilità del 40% per spese per i congressi farmaceutici. Ah! Ritorna insomma la variegata rassegna degli anni passati, l'assalto alla diligenza. Il relatore Giovanni Sanga del Partito Democratico dice: passeranno solo gli emendamenti attinenti il provvedimento, altro no. Tutti gli anni si dice così, poi staremo a vedere in fase di approvazione. Però ci sono per ora emendamenti, vale a dire proposte alla legge di bilancio, che verranno discusse alla Camera e al Senato, e vedremo. Soldi, soldi. Questa l'aveva detto anche, l'aveva scritta Sergio Rizzo qualche giorno fa sul Corriere. Il Fatto Quotidiano va ad approfondire i 17 milioni destinati dalla Regione Campania ai comuni del terremoto. E quale terremoto? Voi direte, quello di Amatrice? Quale terremoto? Quello adesso, l'ultimo? Il terremoto dell'Irpinia. Altri 17 milioni per il terremoto di 36 anni fa. Vincenzo Iurillo racconta per il Fatto Quotidiano a pagina 6. Ad Avellino arriveranno 600.000 euro. Saranno contenti ovviamente ad Avellino. A Bagnoli Irpino, dove saranno contenti, 200.000 euro. A Guardia Lombardi 600.000 euro. 400.000 a Lioni e 400.000 a Cerreto Sannita nel Beneventano. Nel Salernitano Palomonte aspetta ancora 1 milione di euro, Oliveto Citra 200.000 euro, Pagani 300.000, dati a Campione prelevati dagli allegati di una delibera di giunta del 25 ottobre 2016, tra l'altro il giorno prima dell'ultimo terremoto che ha fatto tremare l'Italia centrale. Una delibera che sin dal titolo riporta la storia indietro di 36 anni. Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 1980. Ma com'è prosecuzione, si chiede il Fatto? E sì, perché di fatto, a dispetto di circa 150.000 abitazioni rimesse in piedi e quasi 60 miliardi di vecchie lire spese o sprecate in rivoli e rivoletti, quasi 9.000 feriti e quasi 3.000 morti dopo, la ricostruzione in Campania non è mai terminata e gli interventi a pioggia continuano per mettere in sicurezza case, strade, ponti in paesi che dopo il 23 novembre 80 non sono tornati più gli stessi. La delibera dell'esecutivo guidata dal governatore De Luca ha stanziato altri 17 milioni 500 mila euro per completare i lavori. E Ale, 36 anni sono passati, eccolo qua, soldi. A proposito di soldi e di Radio Maria, visto che vi avevo detto che cioè, sarebbe stato per Radio Maria, pagina 15 di Repubblica racconta, dopo l'ultimo scandalo, il prete che a Radio Maria ha detto che questo terremoto è una punizione per che cosa, i matrimoni gay, insomma le solite fregnacce, eccolo qua, Sebastiano Messina racconta quegli anatemi di Radio Maria pagati con i soldi pubblici. L'emittente ha ricevuto in 3 anni, cioè gli ultimi 3 anni, no, dal 2011 al 2013 per la verità, gli ultimi 3 anni di cui si conoscono le cifre, 779 mila euro nel 2011, 730 mila euro per il 2012, 581 mila euro per il 2013. Sono in tutto 2 milioni e 90 mila euro. Perché? A titolo di mero sostegno, in base a una legge di 18 anni fa varata per sostenere le emittenti locali, che però le assicura un canale privilegiato. Oddio, locale. Ecco, adesso Radio Maria di locale proprio a ben poco. Comunque, sta di fatto che l'emittente ha ricevuto in 3 anni 2 milioni e 90 mila euro di fondi statali, e c'è anche la critica della Corte dei Conti che ha segnalato che si tratta non di una regola generale astratta, ma di una legge provvedimento stilata su misura dei beneficiari che vincola lo Stato a assegnare loro una quota prefissata. Insomma, la Corte dei Conti ha criticato questo per l'assenza di criteri per assegnare questi fondi. Il dato di fatto è questo. Su Repubblica ne parlano. E ne parla e ne scrive Sebastiano Messina. Va bene, concludiamo con i soldi, dopo i milioni, dopo i miliardi, dopo i tanti soldi, siamo a 10 euro ed è questo l'articolo che mi fa pinzore di questa giornata. I 10 euro che ha dovuto tirare fuori, per la verità, al sindacato di polizia SIULP fanno sapere che al momento non li ha ancora tirati fuori, non li ha ancora versati, forse per protestare verso questa situazione assurda. Il poliziotto ferito dagli antagonisti deve pagarsi il ticket in ospedale. Succede, racconta il giorno dopo gli scontri proprio della Leopolda a Firenze, dove c'è l'assurdo caso, racconta Cristina degli Esposti, di un poliziotto che è finito il servizio dopo aver preso qualche botta, è andato all'ospedale Santa Maria Nuova per una visita, una radiografia al gomito perché temeva fosse rotto, e dovrà pagare 10 euro di ticket perché lo prevede una delibera del 2012 Regione Toscana che ha istituito un contributo fisso di 10 euro appunto per la diagnostica per immagini, salvo i casi in cui si proceda al ricovero a seguito dell'accesso in pronto soccorso. Siccome lui non ha fatto così, cioè è finito il servizio, è andato sì al pronto soccorso a dire vedete forse mi sono rotto il gomito, ha fatto gli scontri con gli antagonisti alla Leopolda, o meglio fuori dalla Leopolda, eccolo qui, dovrà pagarsi il ticket. L'assurdo caso al pronto soccorso dopo la guerriglia urbana. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Alessandro Milan, Fujisuza, Konnichiwa, Dongija. Dialetto sudcoreano. Benissimo, benissimo, accettiamo tutto cari ascoltatori, qui alle 7:35 minuti. Dobbiamo invece da Sud Corea arrivare in Italia, alla Leopolda, Firenze, dove ieri Renzi ha fatto un attacco molto duro alla minoranza del partito ed è finita con i cori fuori. Un qualcosa segnalato dai giornali, come dire, che non ha precedenti, cioè una spaccatura netta. È vero che lì alla Leopolda ovviamente sono tutti renziani e quindi si sono fatti magari prendere un po' la mano. Racconta Alessandra Longo a pagina 8 della Repubblica, migliaia di militanti del PD che a sentir solo nominare la minoranza sbanda, rumoreggia, urla fuori. Non era mai successo in una forma così netta. Il popolo della Leopolda si separa con rabbia dal vecchio gruppo dirigente e fa materializzare lo spettro della scissione. Renzi parla la pancia della sua gente. Gli stessi che decretarono la fine dell'Ulivo 18 anni fa stanno provando ora a distruggere il PD, dice il premier. hanno perso il congresso, ora usano il referendum come strumento per giocarsi la partita della rivincita. Ed ecco allora la gente che inizia a urlare fuori, fuori, caccia Bersani. E lui, tra l'altro, forte del sì di Gianni Cuperlo, che ha provocato ulteriore frattura in quel che resta della minoranza, non fa nulla per trattenerli. Questa, per esempio, è l'accusa di Roberto Speranza, leader della minoranza PD, intervistato subito da Giovanna Casadio per commentare questa vicenda. Dice Speranza: sono incazzato e ancora più determinato a girare l'Italia per spiegare le ragioni del no al referendum. Ho ricevuto valanghe di messaggi di compagni che mi dicono: tenete duro, il premier doveva fermarli. Non sono elezioni politiche, quando ci saranno faremo le primarie, appoggeremo il candidato che vince. Dice comunque Speranza: non me ne vado neppure con le cannonate dal Partito Democratico, che non è il PDR, cioè il partito di Renzi, ma è il PD. Questa è la reazione di Speranza. Ci sono i retroscena legati a quella che è la posizione di Renzi. Il Messaggero racconta con Marco Conti a pagina 5: il premier alla resa dei conti, se perdo lascio Palazzo Chigi, io non mi lascerò cuocere a Palazzo Chigi, dice così Renzi, la camicia bianca zuppa di sudore nella stanzetta allestita dietro al palco, dove si rifugia dopo il lungo discorso che ha chiuso la Leopolda. C'è tutto lo Stato Maggiore, il ministro Boschi, il sottosegretario Lotti, Franceschini, molti parlamentari del PD, il fuori, fuori, che la platea ha urlato indirizzandolo alla sinistra bersaniana, colpevole di non aver accettato la mediazione sull'Italicum, riecheggia nella stanza dove è allestito un piccolo buffet. C'è anche la signora Agnese coi figli, con la First Lady in platea che ha battuto le mani al marito, ma ora si preoccupa dei compiti che il figlio sta facendo, mentre intorno a papà il via vai continua. I sassolini li ho levati tutti, sostiene il premier. La Leopolda, questa la migliore di tutte. La strategia, secondo il Messaggero, ovviamente attento a non invadere le prerogative del capo dello Stato, è questa. Renzi ha raccontato con chiarezza cosa intende fare dopo il 4 dicembre. Niente elezioni, ma G7 a Taormina e celebrazione a Roma dei trattati se vince il sì. Mentre in caso di sconfitta, dimettersi e da segretario del PD iniziare una campagna elettorale senza quartiere fino al voto contro l'ammucchiata del no. Racconta addirittura su questo il Corriere della Sera che ovviamente a quel punto il segretario non lascerà spazio nelle liste elettorali a chi ha sabotato le riforme. Quindi in caso di vittoria del no si dimette da Palazzo Chigi e punta a nuove elezioni da segretario del PD, ovviamente stando ben attento a chi mettere in lista. Questo ovviamente è quello che raccontano in retroscena. Attenzione, ci sono un paio di interviste a un imprenditore vicino a Renzi, vale a dire Oscar Farinetti, il leader e fondatore della catena Italy, che per esempio al Corriere della Sera dice: attenzione Matteo, dovrebbe essere più se stesso, bisogna tornare simpatici. Ma perché? È antipatico? Beh, è provato che dopo 2 anni a Palazzo Chigi si tende a diventarlo. Le persone che ci stanno simpatiche sono quelle che rivelano i propri sentimenti. E quindi penso che il leader del PD dovrebbe metterci molta più leggerezza. Il consiglio, e ho detto a Matteo, dobbiamo tornare simpatici, per vincere è fondamentale, ci vogliono argomenti vincenti, bisogna dire noi stiamo provando a cambiare le cose, senza timore di far vedere agli italiani che siamo esseri imperfetti. E poi risponde alla domanda che tutti si fanno, e cioè la nuova visibilità della moglie Agnese, se rientri nell'operazione simpatia. Non sono iscritto al PD, non frequento l'entourage, non commento gli effetti speciali, risponde Farinetti, ma ad amico personale posso dire che il rapporto con la moglie è amore vero. Perché tutti hanno fatto notare effettivamente questa cosa, cioè la moglie di Renzi è apparsa un po' ovunque alla cena di Obama, adesso lui la cita. Io l'ho tradotto così: quando appunto hai un problema forse di simpatia, regola numero uno, manda avanti tua moglie con un bel sorriso e vedrai che si apriranno un po' di porte in più. In ogni caso, anche Tommaso Ciriaco su Repubblica si esercita nel retroscena di quello che ha voluto dire Renzi, il dietro le quinte da Leopolda, e cioè, scrive Repubblica, si è capito che vado avanti solo con il sì e che se perdo mi dimetto perché non ho alcuna intenzione di restare a Palazzo Chigi per farmi rosolare da quelli là. Ecco, questo nel backstage della Leopolda è la posizione di Renzi, quindi mi dimetterei in caso di vittoria del no, rimarrei ovviamente segretario del PD e si punta a nuove elezioni. Comunque staremo a vedere, il 5 dicembre, o meglio il 4, è alle porte e poi il 5 si vedrà. Certo, alle porte un po' di più le elezioni americane, sono anche un po' più importanti, e tra poco infatti vedremo cosa propongono i giornali. Vi segnalo che sulle cartelle di Equitalia invece è l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, visto che entra nel vivo l'operazione di rottamazione delle cartelle di avvisi esecutivi affidati a Equitalia, c'è la pubblicazione del modello per l'istanza, e così i contribuenti possono attivare la procedura indicando i ruoli ai quali applicare la definizione agevolata. Resta da considerare la variabile della rateazione. Comunque, a pagina 2-3 del Sole c'è tutto, come ci sono invece sulla legge di bilancio, nell'analisi della legge di bilancio, dei dati interessanti riguardo alla produttività, sconti fino a 1.500 euro, così racconta il Sole. Dal 2017 si allarga la platea di beneficiari grazie al doppio aumento delle soglie. Raccontano Francesca Barbieri e Ornella Lacqua che è in arrivo un pieno di risparmi fiscali, si arriva fino a quota 1.500 euro in un anno, per i lavoratori dipendenti del settore privato che riceveranno premi di produttività nel 2017. Grazie ai ritorchi previsti dal disegno di legge di bilancio alla disciplina della detassazione, da gennaio si alzeranno infatti i tetti per rientrare nel raggio d'azione degli sconti. Nella manovra, ora all'esame della Camera, viene allargata la platea dei beneficiari. Il limite di reddito da lavoro dipendente per avere diritto alla tassazione agevolata dei premi sale infatti da 50 a 80 mila euro lordi annui. Questi i primi dettagli, e ovviamente ci sono anche tutte le simulazioni di quanto un dipendente può guadagnare, di quanto può essere il premio di produttività e quanto dunque la detassazione. Questo lo scoprite sul Sole 24 Ore. A proposito del Sole 24 Ore, c'è un'assenza presenza. Mauro Meazza, che oggi e domani non ci sarà, ma almeno oggi, per il sacrosanto lunedì, che ha portato bene anche giorno dopo una grande, brillante vittoria per i colori nerazzurri, con il temibilissimo Crotone. Ebbene, allora Mauro Meazza, per festeggiare, ci ha lasciato in registrata gli endecasillabi. L'amor che muove il sole e le altre stelle invita a perdonare chi si pente. Il fisco dà il perdon sulle cartelle, voi perdonate me se sono assente. Lasciai però i miei versi alla mercé del Nespoli Lorenzo Giovanotto per segnalar stamane cosa c'è sul Sol 24 Ore e non 28. Chi leggerà le pagine 2 e 3 potrà così vedere, se lo ammalia, lo sconto sulle multe che ora c'è e si può andare a chiedere a Equitalia. Ma non di solo fisco, questo è certo, vive il lettore nostro beneamato. Avrà anche le risposte dell'esperto e un ebook sul sito regalato. Poi leggerà di treni e ferrovie in graduatoria nell'Europa tutta, quei che stan sopra o nelle retrovie. L'Italia in posizione non così brutta. Del campionato ancor non faccio verbo, per non guastare con alcun viattico l'allenatore nuovo che con nervo ci guiderà sapiente, anche nel traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Alessandro Milan, aiuto! Non ti devo dire che dialetto sono sardo, sono. Abbastanza, si è capito, sai. Allora, caro amico, a te come a tutti dovrebbero interessare, cominciare a interessare gli articoli, tanti articoli sulle elezioni presidenziali. Domani si vota, ovviamente Radio 24 seguirà minuto per minuto, anche di notte, tutto lo spoglio, tutte le novità per annunciarvi in diretta chi sarà il nuovo presidente americano. Sarà una donna Hillary Clinton? Sarà un uomo Donald Trump? Sarà democratica, cioè Hillary Clinton, o repubblicana Donald Trump? Repubblicano? Vedremo. Intanto, forse la novità che ha squassato la campagna elettorale nell'ultima settimana è un po' depotenziata, cioè la riapertura del caso contro Hillary Clinton da parte dell'FBI. Ora è stato un po' depotenziato perché l'FBI ha annunciato ieri che non procederà all'incriminazione di Hillary Clinton per il caso di email. James Comey, direttore dell'FBI, lo ha comunicato al Congresso. Questo almeno ha rivelato ieri un deputato repubblicano, peraltro. La notizia è piombata a poche ore dal voto dell'8 novembre. Sto leggendo l'articolo di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, pagina 8. Dunque, Comey, capo dell'FBI, sostiene che i nuovi messaggi recuperati nel computer di Anthony Weiner, ex marito della collaboratrice più stretta di Hillary Clinton, non cambiano le conclusioni che lui stesso aveva diffuso ufficialmente il 5 luglio chiudendo il caso. Vale a dire, secondo l'FBI, Clinton ha gestito con estrema superficialità la posta elettronica quando era segretario di Stato, ma non ci sono gli estremi per configurare un reato. È forse l'ultima sorpresa della campagna. E dunque le polemiche ora cambiano. È Hillary Clinton che si compiace della decisione, mentre Donald Trump contesterà e contesta questa decisione. L'ira di Trump, infatti, secondo il giornale, questo sistema è corrotto. Sta di fatto che fino all'ultimo questa vicenda delle email ha procurato prima grattacapi Hillary Clinton, ora invece forse un po' di sollievo il giorno prima delle elezioni, si sa che non ci sarà incriminazione. Comunque anche Repubblica, pagina 2-3, la dedica proprio a questo. L'ultima sfida, il muro degli ispanici contro Trump, Hillary che sale nei sondaggi dopo che l'FBI l'assolve, e vedremo. In ogni caso sappiate che mi hanno detto che già 30, sapete quanti americani hanno già votato? Perché è possibile l'early vote, cioè si può votare prima, si può anche votare dall'estero ovviamente, 37 milioni di cittadini americani hanno già espresso il loro voto, tant'è vero che Trump ha chiesto a molti di loro, perché in alcuni stati è consentito, di rivedere la propria decisione dopo che l'FBI aveva riaperto il caso contro Hillary Clinton, di rivedere la decisione. È possibile questo, cioè si può fare l'early vote e si può anche cambiare idea, mentre ovviamente tutti ora vanno a vedere chi sta con chi, no? Siamo alle dichiarazioni di voto, il Corriere della Sera si concentra, chissà perché, comunque sul ruolo di quella che viene definita la strana coppia, racconta Gaia Piccardi a pagina 11 del Corriere, e cioè Mike Tyson, sì, proprio lui, Mike Tyson, che vota Donald Trump e dice sto con Donald Trump. Chi invece non sta, ma siamo arrivati in Europa, siamo più vicini a noi fisicamente, con Erdogan in Turchia, è Emma Bonino, tra l'altro ex ministro degli esteri, fa un'intervista al Corriere della Sera e racconta, attenzione, Erdogan è verso la dittatura, ma con lui l'Europa ha sbagliato molto. Dice Emma Bonino, nel momento in cui abbiamo deciso, sbagliando, che la nostra priorità nei confronti di Ankara era che si tenessero rifugiati e migranti, tutto il resto è diventato secondario. Dovremmo tornare credibili, affrontare la questione dei migranti con l'integrazione, liberarci dalla dipendenza nei confronti della Turchia, cui abbiamo di fatto appaltato il problema dei rifugiati e la difesa delle frontiere esterne. Ci siamo consegnati mani e piedi a Erdogan, la cui deriva autoritaria non è cominciata con l'arresto dei leader curdi. Questa deriva non è accettabile, dice Emma Bonino, ma occorre anche riconoscere i nostri errori e correggerli. Solo la Germania ha fatto una legge sull'integrazione, gli altri nessuno. Noi in Italia siamo bravissimi a salvare le persone, dobbiamo esserne orgogliosi, ma poi quando arrivano siamo ancora fermi alla Bossi-Fini, al reato di clandestinità e via continuando. E poi dice Mabonino, un altro errore con la Turchia è quando nel 2006 sbagliammo a chiudere le porte dell'Unione Europea. Fu un errore, assolutamente sì, e fu quella la prima perdita di credibilità quando il Consiglio Europeo decise all'unanimità di aprire negoziati. Tutti sapevano che sarebbero durati 20 anni, ma appena 2 mesi dopo, trascinati da Merkel e Sarkozy, i leader europei cambiarono idea. Insomma, la Turchia sbaglia, Erdogan rischia di portarci alla dittatura in Turchia, ma anche l'Unione Europea, così dice Mabonino, ha e compie i suoi errori. Rimanendo in quella zona e spostandoci un po' più in lì, c'è un po' più a sud soprattutto, c'è la questione dell'Iraq e della Siria. Ora c'è un attacco a sorpresa contro Raqqa, annunciato da una capo militare curda, Jihan Sheikh Ahmad. Trovate questo comunicato in un arabo un po' a fatica, come racconta la stampa, ma lei, capelli raccolti in una coda di cavallo, indosso la mimetica verde, giovane ufficiale curda, annuncia dal nord della Siria il via all'offensiva su Raqqa, e dunque forse parte la battaglia, anche questa si dice decisiva, comunque una battaglia importante contro lo Stato Islamico nella roccaforte di Raqqa. Torniamo in Italia, c'è tanto ovviamente della cronaca di questo paese fragile che appena viene giù un po' di acqua, tanta acqua per carità, deve contare oltre a frane, alluvioni, anche 2 morti, in questo caso nel Lazio, oltre a feriti. E vi segnalo anche queste 2 pagine molto belle di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, pagina 22 e 23, fa una analisi di chi? Dei ragazzi che si ritirano dalla società. È un fenomeno molto conosciuto soprattutto in Giappone, li chiamano i Hikikomori, è iniziato negli anni 80, ma non pensate che non ci sia anche in Italia. Secondo questa analisi di Dario Di Vico ci sono circa 150.000 adolescenti che vivono nelle condizioni di totale solitudine, e sono raccolte le parole dei genitori di alcuni di questi ragazzi. Una sera, racconta per esempio Carmen, mio figlio Sandro si è seduto sul mobile della cucina e ha detto da domani io a scuola non ci vado più, in quarta liceo, e ha piantato tutto, il calcio, gli amici, è diventato vegano, ha smesso di mangiare a tavola con la famiglia e non esce più dalla camera. Non faccio battute sui vegani, ho un caro amico vegano che non fa questi comportamenti. Oppure racconta Giulia un'altra mamma, Marco è andato dopo il liceo a lavorare, al primo contatto non l'hanno pagato, ha vissuto un senso di vergogna e inadeguatezza, si è chiuso dal mondo e sta in camera. E così, 100.000 ragazzi italiani, nostri figli, che vivono in questa condizione. Siamo qui, alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qua, è sulla stampa, una pagina intera, pagina 33 della stampa, sulla scollatura che è fuori moda. Oddio, a vedere queste foto potrebbe anche tornare di moda, ma vabbè, la scollatura, secondo Vogue, è fuori moda. Ma chi se ne frega!